Franco. Buonasera, la stai provando? Sì, Daniele. K Daniele, sto provando una radio vintage, un Midland del 78. Va bene, prova, falli andare questa radio. Come sta uscendo, bene? Va bene, Fra, va bene. Cos'è? Modulazione normale, sì. Ma io ho abbinato le mie BG4. K, va bene, va bene. Stesso segnale, stessa modulazione. 9,5 sei qua, è radio 5. Vabbè, adesso sto usando una YouTube. Mentre così sono senza niente. Sono con la radio sola, come il cretino qua. Metti la UT, lo metti. Molto acceso. 7, ma è salito il QRM di botto. Esatto, me lo immagino. Ok, così dovrebbe andare meglio. Capito. Va bene. Che ti porti il fruscio e c'ho sotto io il QRM. Che è salito a 5. E niente, adesso così c'è la radio perfetta e funziona tutto alla perfezione. Capo, questo era un apparecchio che non lo usavo. Infatti ieri sera lo volevo provare con Tino, poi non mi sono trovato il microfono per questo, perché una radio che non stavo mai usando. E allora oggi mi sono fatto uno spezzone e gli ho abbinato il MVP4. Già, va bene, Fra, va bene per la truppa. K, ultimo segnale. Mi sono aiutino, però hai cambiato la radio, in poche parole, là. Vabbè, senza aiutino questo non va da nessuna parte, perché c'è bassino, c'ha pochi watt, non c'ha neanche 5 watt. Vabbè, però dalla distanza in cui sei, a dove sono io, nelle condizioni in cui sono, con 5 watt, 4 watt, dai, quello che arrivi 7, pulito. Capo, anche tu arrivi così, non è che arrivi da me. Magari siamo un po' nascosti, abbiamo qualcosa che ci impedisce. Vabbè, può darsi, perché io qua sono la palazzina più bassa di tutti, capito? Sono Calimero io. Gli altri sono tutti alti, poi sono accerchiato da palazzoni, quindi anche se ti ho di fronte in linea d'aria, però sono ostacolato. Vabbè, ma non è un problema quello. Non ci metti l'antenna nel palazzone più alto, oppure prendi una ruffa e butti giù tutti quanti. Oppure mi trasferisco di casa, 2 o 3 sono le soluzioni. Saranno 120 che saranno la segnaletta. Va bene, Fra, va bene. Poi ripeto, quando mi sistemo vediamo cosa succede. Se migliora, peggiora, ci butto tutto, No, dovrebbe migliorare, dai, dovrebbe migliorare. Anch'io quando ho iniziato di nuovo, ho trovato dei baracchini piccoli qua, che ce l'ho ancora qua, uno piccolo della Intec, e quando l'ho trovato dentro la scatola ho detto lascia vedere se funziona. C'avevo una base magnetica, ce l'ho ancora, base magnetica per la macchina, l'ho messa sul tetto qua vicino dove ci arrivavo io. Ho provato e mi ha risposto, il primo di tutti mi ha risposto Gian Maria, mi ha risposto, basso, però mi sentivo. Poi piano piano ci ho messo un'antenna più grandetta, una Grand Prix, poi la Grand Prix l'ho tolta, ci ho messo la mattomatura. E stai usando quella, e è ultima, e va bene. Sì, dai, secondo me già qualcosa migliorerà. O migliora, resta tutto invariato, il recupero di modulazione, cioè di trasmissione. Di modulazione. l'immolazione sei perfetto, sei radio 5 perfetta, anzi bella amplificata, sei compressibile al 100%, è come che arrivassi 9.40 qua per la modulazione. Ehi Afra, meglio così dai, meglio così. Adesso aspettiamo cosa evolverci dai fatti, perché oggi volevo mettere un altro spezzone di tubo, però sta piovendo, non ce l'ho fatta. Adesso vediamo domani se il tempo migliora e vediamo se riusciamo a fare così, mi sistemo definitivamente quel palo e dobbiamo cambiare solamente l'antenna. Ma ti conviene aspettare la nuova però. A me così faccio già il basamento, già, è già pronto. Ehi vabbè, tu pure c'hai ragione, così ce la tiro una volta sola, ma intanto sempre al piano di sopra devo salire, Fra, perché deve scavalcare quei radialini la mantovana. E quindi devo farlo al piano di sopra, se no non scende la mazza. Ehi capo, sì, ma il lavoro quando lo fai una volta, poi non lo prendi più in mano. Quando ti arriva la l'antenna nuova, e ci metti direttamente l'antenna nuova, lo fai una volta, il lavoro e non lo tocchi più. KK, cioè faccio proprio così. Ha fatto 30, può fare 31 intanto. E allora, a parte che arrivi bene qua, come l'importante è la radio, non è il segnale, è la radio. Una volta che arrivi bene, ci arrivi bene da me, arrivi bene dappertutto, vai tranquillo. Per quelli che siamo qua e per questo. Sì. Stai zitto, che stai innescando. Sì, volevo provare con con Porto Torres, qualche altro sta mudando a Porto Torres, come ricordo mai come si chiama, e vedere un po' cosa succedeva. Con Eugenio. Con Eugenio. E vedere se, perché abbiamo fatto le prove ma ancora non ero così in alto. Io penso che ci arriveresti lo stesso, perché Porto Torres io ce l'ho libero al 100% qua, ce l'ho di fronte, io sono la zona più alta che c'è a sotto. La parte alta verso Sennori. Ho capito. E meno male che non sei nell'altro pezzo di vallata che c'è verso il mare. Se sarei lì non mi avresti ascoltato di sicuro. Perché c'è anche un altro mio amico che è più al centro ed è giù. E non è che arrivi tanto, a meno che non ho attaccato al tuo lineare per uscire, ma se no esce basso lo stesso. Perché lì è tribula, se capiti nella parte bassa è tribula. Stamattina c'ero lì dalle tue parti. Io ero a Sassari, da Bricoli, stamattina. Ho preso tutto quell'acqua, quanto ne ho fatto. No, io giusto, me l'ho scampata, sono salito e sceso, ho fatto quello che doveva fare, qua a Sassari, e l'ho riportato giù a Sorso, dai, vicino al più giù del cimitero. Cos'è, per il lavoro? Ma che lavoro fai? Nelle ambulanze sono, Fra. Ho capito. Allora qua siete tutti i giorni vicino a casa mia. No, lì ci barzecchiamo pochissimo, solo su prenotazione, chi ci chiama, chi deve fare qualche visita. Veniamo, li prendiamo e li riportiamo. Perché questa è la via centrale delle ambulanze, passano tutte da qua, passano sia scendendo che salendo, tutte da qua. Lì c'è la cooperativa di Sennori che passa spesso e volentieri allora. E a tutte le ore qua lo sentiamo il sirena, scendendo, cioè più salendo che scendendo. Cava, va bene. Claudio ancora non si è fatto sentire. Sì, a quest'ora lo penso, sono 4 e 5. E lo penso, più tardi magari. Va bene. Ok, dai, ciao Daniele, che mi metto a anche tutta quanta la roba che ho qua, e ho un bel roba in mezzo a cose, poi mi metto a posto alla radio e ce l'ho spostata e ho e dei fili volanti per farla funzionare. Ehi Afra, anche adesso chiudo un po', faccio un attimo di stand by e poi quando siamo tutti già rientro dopo, dai. Ehi, ehi, magari ci sentiamo più tardi. Ciao Daniele. Spegnete Valentini. Chi è? Avanti. Certo, ma ormai guarda su fiacche. Spegnete Valentini. Ma dove sei? Ma qua sì. No, dove sono qua? Ciao. Pensami, pari nome. Pari. Questo è come. Oh, ho visto una cosa stamattina, ma la tua è. Dipende, che cosa? Qua da un posto. Boh, ma dove? Su subito? No, l'ho vista su un provello. Ah, sì, sì. Ecco. Che figlia brisa. E vabbè, si parte alto. Ah, che cazzo. Vabbè, c'hai ragione, ci devi comprare un altro. Vabbè, ma è tutto insieme anche, modifiche e quant'altro, eh. Ma chi è fra che non l'ho riconosciuto? Oggi via dove? No, siamo in ascolto e facendo, adesso vabbè, stiamo mettendo dei fili sotto traccia. Ma chi è Tino? Via, buonasera. Ciao Tino, ti stavo riconoscendo questa radio prepotente che c'hai. Così prepotente è questa? Ehi cavolo, ti stavo riconoscendo, e te chi è questa adesso? Vabbè, questa la utilizzano così qua. Hola. Ma non mettere in moto il mio elicottero? Fino a prendere il volo. Vabbè, se non ce n'è, ecco. No. Cosa dai, rispetto del tutto come faccio io? Ehi, a me stanca, ecco. Allora, già è bella le volte a sentire quando sei in macchina, quando sei in viaggio, così. Sono ta brutteggia, eh. Va bene, dammi il segnale così da questa postazione. 9:26 di segnale. Va bene. Davvero non lo posso fare perché sto usando. Ah, sto usando quello che stavo attaccando ieri, non trovavo il microfono. Ti ho fatto l'attacco per le mezze di qua. Va bene, fra, va bene. C'è un grido, gli andava bene. Però c'è l'aiutino, sì. Perché se tolgo l'aiutino non mi sento. 6:20 qua. E adesso cos'è? 9:20. Adesso si rompe. Vicino a me. No, i punti, dai. Ah, è quello allora. Ma cosa faccio se non aiutando la stavo usando? Questo qua. Vabbè. I punti lì arrivo a posto. Già va bene, dai. Vabbè, ti lascio proprio questo, dai, che sto facendo cosa. Ehi, dai, ci sentiamo, sì. Io stavo chiudendo, infatti. Ci sentiamo più tardi. Mi prendi Daniele. Ehi, dai, anch'io sto chiudendo. Sì, ci ascoltiamo dopo, dai. Buon proseguimento e buon tutto, dai. Ciao Fra, a dopo. Ciao Daniele, Santiago 7 tu, eh. 7? Sì, 7. Va bene, ultimo per la truppa. Di più non posso pretendere. Va bene, dai. Buon proseguimento e buon tutto, a dopo, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Caralito. A spinge, eh? Poco fa mi hai fatto spaventare. Io entro sempre per potente, che... Va bene così, dai, sentiamo, se no siamo che non posso dire, ciao. Un baffo che fa Claudio Sparviero, che... Silenzio, mi devo essere incazzato. Ma non rispondono. Già glielo dico stasera, allora. Ciao, ciao. Scappa, ciao, dai. Se si incazza lui, c'è la roba più grossa della nostra. Guarda, seppur non sarò il primo in trasmissione, sarò certo il primo in ascolto, quindi in ricezione. Ok. Non che glielo annullo. Non piace, mi girete il coglione, vi giro la direttiva, fa ammazza tutte e tre. Allora già esce all'uovo di Pasqua, hai visto che ti ho provocato sino al tal punto di uscire. Bella. Dovete fare da bravi. lineare io, non mi vedi girare direttivi, a che non ci vedo io lineare io. Guarda che non è un lineare, ascolta a me, ti ho chiamato ieri, non sei neanche entrato, hai capito? Ma io a quell'ora mica la maglieggio, non hai capito? Fatela bravi, che siete tutti di vicino, ma non mi provocate, io ho le direttive, non ho bisogno di lineare, quindi fatela brava, lasciatemi perdere a me che io sono anziano e non ho voglia più di giocare, ma non mi provochete però, eh. Dai, smettila, fra, non si incazza. Ci assegnava tu da che ha fatto là, ma Tino, ma hai sentito la battuta che ha fatto? È anziano. Non lo so provare però quando parlo. Ciao dai, che devo lavorare, ci sentiamo stasera. I giochi a dopo. I giochi fateveli voi, ciao. Ciao, ciao. Dai che poi stasera mi devi dare un controllo qua. Mi hai sentito, rispondimi quando ti parlo. Ehi, ti ho detto non mi provochiedi a me, ciao. Ciao. Te lo sai che ti annullo la ricezione, eh no? Sì. E il mio ti la direttiva non te ne manca franco, buh. Addirittura. Eh beh, penso proprio di sì. La vita Giulia rimane così il suo stesso. Quando ho girato verso la Germania. Oggi mi rifaccio la radio, lasciatemi perdere a me, che poi divento monello, ciao. Ma è così che ti vogliamo, combattivo. Sono finiti i giochi, oramai che lo Sparviero non esiste più, divertitevi. Ciao, proprio adesso, eh. Cazzo, se avete ripigliato la radio, vuoi girare il guglione a me? Ciao, cara, ciao, ci sentiamo, carissimo. Ciao, ciao. Chi è? Avanti. Ciao Daniele, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Tutto a posto? Tutto a Rogero qua. Bene mela, bene mela. Anche qua tutto ok. Meglio così già. A parte la pazzone. Già ci vuole, almeno la vaporiamo anche le macchine. E le strade. Le strade soprattutto. E allora che si dice? Tutto nella norma, come si suol dire, tutto nella norma. Va, la sincope di ascesa, eh? Cos'è, la parata sta facendo i capricci? Guarda, non fa più nulla, senti. Il bip è sparito. Ola, ola. La sparione. Così all'improvviso. Così all'improvviso. Troppo in fretta ho parlato. Ola, sta funzionando tre giorni di fila, al quarto giorno. Mettigli una pastiglia di Viagra. Chissà, dopo vai la compro. Ma lei qua c'è adesso, guarda un po' già. Cappa, sì, adesso sì. Che strano, sparisce il bip e il parlo ascolta. Mi sa, non vorrei c'è questo potenziometro. È strano, perché l'ho mosso, come l'ho girato, ha fatto i capricci. Allora magari è sporco, magari l'apparato spento, prova a girarlo più volte, non troppo veloce, per vedere se cambia. Perché l'ho girato, guarda, prima che entrassi, due secondi prima che entrassi tu. Sei punta in bianco, non stanno più andando, eppure il fatto ci sono tutti, adesso lo facciamo andare così. Mi senti sempre? Sì, già. Segnale 920 radio 5. Non è sceso il segnale. Non ti ho capito, scusa. Ho detto già, il segnale non è sceso. Guarda, qua arrivi 920 radio 5. Sta andando con 2,5. Guarda adesso. Adesso un picco più in alto, dai. Gappa. Adesso lo faccio andare così. Aspetta, un attimo. 2,5, tondi. E 4 modulati. Bene meda, bene meda. Va benissimo così. Ma fino a quanto tira su, Daniele? Questo, stando allo strumento, segna 9 watt. Però mi sembra strano, Mi sembra strano. Ma adesso l'hai tirato tutto su o l'hai abbassato? Adesso è al minimo, tutto giù. Ok, guarda, siccome ho messo a posto lo smitter l'altra sera, e quindi adesso, bene o male, è un po' più attendibile. E quindi praticamente qua mi arrivi proprio sull'attacca del 920. Va bene, perché siamo anche vicini, capito? In linea d'aria siamo attaccati. E quindi è più che normale. Però boh, alla fin fine mi tocca portarla al dottore verso la radio. Ma qual è? Quella modificata, giusto? Sempre lei è già. Sempre lei che ogni tanto fa capricci. Perché mi avevi detto che, cioè, avevi detto che ne avevi un'altra gemella, però era piuttosto originale, credo. Sì, c'ho l'altra che è gemella, questa come mamma l'ha fatta. Non c'ha niente. E questa invece l'avevo presa così. KK, sono tutte e due 48, no? K, tutti e due sono gemelle esteticamente, ma cambia la componentistica. Ma più o meno sono dello stesso anno oppure sono di epoche diverse? Siamo lì come epoca. Sono dello stesso anno, mi sa, dai. Ok, giusto per capire se magari avevi quello di vecchia generazione e anche l'altro di nuova generazione. No, sono tutti e due di vecchia generazione. Bene, dai, qua già, vabbè che siamo vicini, però già arrivi forte. Va bene, cazzo, mi dà un crepo. Ora, non mi vuoi sa bene, adesso devo aspettare. Aspetta che provo ad accendere, spengo e riaccendo, aspetta. Ok. Niente da fare, non lo vuoi sapere. Gianni. Eia. Ho detto, niente da fare, non lo vuoi sapere. Ma l'hai lasciata accesa in questi giorni? Sì, lo stavo usando. Anche poco fa la stavo usando. L'accendo la mattina e la spengo la notte io. Ok. Magari c'è qualche componente che scalda dopo che, insomma, sto facendo un'ipotesi, magari arrivata a una certa temperatura inizia a dare i numeri. Quando la accendi la mattina, va tranquilla sino a tarda serata, diciamo. E io stamattina ho lasciato aspetto, l'ho accesa dopo pranzo, mi sono fatto due chiacchiere. Stava funzionando. E adesso che mi ho messo i watt, non ne vuole più sapere. Potenziometro è già a posto, sì, le saldature del potenziometro, tutto quello che c'è vicino è a posto, sì. Sembra di sì, già. Le ho guardate, straguardate e riguardate un milione di volte. Stravista non mi ha ingannato. Perché la fregatura è che alla vita sembra tutto a posto e poi invece magari... Lo sai quanto me che magari c'è qualche saldatura fredda, può creare problemi. Già lo so. Già adesso vediamo la scotturata. Ora. No, non sta andando. Adesso sei uscito con l'eco, Sì, perché lo sto aumentando e diminuendo io l'eco. Capito? Poi ho toccato questo del watt e mi ha fatto lo stesso giochetto. E poi bisogna aspettare che un signore abbia voglia per riprendersi. Cro. Vabbè, a conto suo io, Sì, sono comandato da una radio alla fine. Quando non ha voglia funziona, quando non ha voglia parla come voglio io. Hai capito. Vabbè, devi sottostare al suo volere, dai. E allora? C'è un detto in questo potenziometro oppure non so già cosa le sia successo. Non posso stare a smanettare troppo, se no la rovino. Adesso sta così. Poi se si vuole riprendere bene, se no ciccia. E siamo attenti. Già funziona lo stesso, già, anche senza bip, non bip già funziona. Sì, sì, l'importante è quello. Quello poi il bip è un piccolo dettaglio. Il bip è il parlo ascolta. E vabbè, qua c'è qualcosa che commuta quando ne ha voglia lui. Mandrone, mandrone, ragazzi. Cosa già? Ho detto che il bip è il parlo ascolta, sono mandroni tutti e due. E allora? Però servono, tra virgolette, perché almeno sai quanto c'è l'eco, come sta girando, capito? Ti ascolti. Sono per quello, se no alla fine la tua effetto perché ti fa le orecchie grandi quanto il Dumbo. Capisco. Ascolta, il mio segnale è sempre uguale, vero? Aspetta che guardo bene lo strumento, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Over 25, sì. K, va bene. Va bene così, dai. Adesso magari dopo quest'acqua, visto che ho spostato l'antenna, temevo che ci fosse qualche ripercussione, invece è tutto ok. No, no, già va bene, sopra avrei subito letto. Ormai già. Lì so i segnali come sono tutti memorizzati. Ci credo, ci credo. Oggi ancora non è entrato nessuno, ragazzi. Ah, proprio fa c'era, dopo pranzo c'era Franco Rissorso, poi era Tino Muscolo in movimento e poi abbiamo chiuso, dai. Ho sentito poco fa qualcun altro, ma non è, credo che non eri tu, adesso non so, o magari eri tu, insomma ero distratto un po' dalla televisione. No, no, adesso è entrato quando mi hai sentito poco fa. Ok, ok. Poi ho sentito un segnale basso e non so chi sia. Si è andato avanti e non è entrato. Beh, anche io poco fa l'ho sentito, poi ti ho detto di entrare. Non è entrato, poi ho provato, mi sono spostato sul 5, ho sentito gente, ma sono andati via subito. Sarà qualche camionista di passaggio? Probabile, probabile. Cava, cava. Va bene, vediamo se c'è Claudio in ascolto. Claudio sicuramente sta facendo altro. Ancora è presto. Eia. A me c'ho il computer messo in fallato, mi ha dato che parte, si accende e si spegne da solo. Tu c'hai il computer, io c'ho la radio a conto suo. Ci sarà entrato qualche bigattino. Ci sarà qualche bigattino, fastidio. Oh, ioia. Che è avanti che vuole entrare? Non vuole entrare nessuno. No, io non ho sentito nessuno. Ho sentito come una portante sotto, ma non lo so. Sono nella mia radio che stavo iniziando a fare emettere rumori strani. Adesso cominciano gli svarioni. A svarioni, ho la febbre e cura ridda. Allora abbiamo a martellate. Oh Daniele, mi devo allontanare un attimo per cercare di sistemare il computer. Dai, magari ci aggiorniamo tra un po', ok? Ehi, già, vai tranquillo. E sentiamo dopo se coincide. K, a dopo, grazie mille. Ehi, ciao, ciao. Davvero? Ok. posizione 10. Attento Gianni. Avanti. Vabbè, tu stavi chiamando? Sì, mi è sembrato di sentire Giulio chiamando a Claudio e quindi mi sono alzato e ho alzato il volume e ho provato a contattarlo. Cazzo, no, anch'io ho acceso, farò scaldare un po', tutto bene già? Più o meno, dai, lamentarsi non serve a niente, quindi lasciamo scorrere come si dice. Ma hai mosso qualcosa? Antenna, no? Allora, ho fatto un accrocchio, praticamente ho tirato su, ho messo l'antenna, quella che avevo, quella che ho tuttora, l'ho messa nel palo della TV e l'ho tirata su di quasi 2-3 metri. Ho fatto un accrocchio, ho aggiunto del cavo, siccome non avevo delle RG 58, avevo uno spettone di RG 59 che è un cavo che si usa in ambito video, che però ha una resistenza di 75. Niente, ho provato a fare un accrocchio e chiaramente il segnale ne ha risentito, però insomma è una cosa provvisoria e quindi insomma ho fatto queste modifiche, molto temporanee comunque. No, qua è un po' diminuito il segnale, infatti ho detto qualcosa è successo. Sì, e beh, praticamente questo spezzone di cavo che sono svariati metri mi ha influito sul segnale, capito? E in più c'è anche un'impedenza diversa, così hai detto? Sì, l'RG 58 è 50 ohm, mentre l'RG 59 che è un cavo video ne ha 75. Fagli qualche giro di... che bisogna sapere come fare i calcoli. Per me è tipo un simmetrizzatore, praticamente ti regola il diomo dell'antenna, però bisogna saperlo fare. Non so se Giulio ne sa qualcosa. No, guarda, è tanto una questione di poco tempo, tra poco, cioè a breve smonto tutto e appena possibile metterò il capo suo. Capo, ho capito. E l'antenna poi cosa hai deciso? Adesso momentaneamente mi tengo questa. C'è roba che sta bollendo in pentola, speriamo che vada tutto bene, quindi insomma, vediamo un po' cosa succede, dai. A livello lavorativo, là. No, a livello di antenna. Per il resto tutto tace per il momento. No, ho capito, Mario, pensavo con il lavoro si possono fare tante cose, quello lì avevo capito. Sì, vabbè. Sì, dai, ho capito cosa intendevi dire, sì, vabbè, forse non mi sono espresso in maniera corretta. No, vabbè, visto che stavamo parlando di roba CP, quindi per adesso, ripeto, sempre nell'ambito CP, vediamo, c'è qualcosina in ballo, vediamo un po' cosa succede. Comunque non ho problemi, vabbè, siamo vicini, quindi. Invece io ho perso nei tuoi confronti anche ricezione, da parte tua. No, la ricezione è buona. Adesso l'altro giorno sono riuscito a mettere a posto lo smitter e praticamente ho fatto una taratura così a occhio con il portatile, visto che praticamente sono nello stesso posto, quindi con la portante ho fatto una prova sia sull'1 che sul 20 e praticamente con la portante fissa ho trovato un trimmer interno da regolare e sono riuscito bene o male a fare una taratura così di massima dello smitter e niente, adesso praticamente è preciso. Che lettura mi dai a me? Lo vedi bene? Vedi un po'? 1, 2, 3? 9,20 abbondante. 9,20 abbondante. Guarda adesso. Adesso sei fondo scala. Quindi un po' sale, dai, da legge. Sì, adesso è abbastanza attendibile, per quanto, insomma, sia uno strumentino così, comunque prima era proprio, completamente sballato, adesso è molto attendibile, infatti gli altri segnali di Claudio, di Giulio, insomma, quelli più forti, più o meno, così a livello di riferimento delle altre radio, insomma, lo segna, insomma, loro arrivano Fladimo arriva qua, 9.20 pieno, anche Giulio, soprattutto più fuori, anche Daniele qua. E quindi dai, per il momento l'ho regolato ed è abbastanza attendibile. Meno male che io arrivo in basso perché sennò non mi sentite. Professionale. Questo invece mi sta dando un problema che quando lo accende un po' rimane un po' anchilosato, un po' lento a salire, no? Come che sia un po' frenato. Dopo un po' invece si sciogliersi e dà delle letture così, no? Non penso che siano esatte, però no, almeno hai dei punti di riferimento. Ehi, qualcuno ti ha sovramodulato mentre hai fatto l'ultimo passaggio? Avanti, chi c'è? Involontariamente. Ciao Tino, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ho detto, meno male che arrivo basso io, se no non mi sentivi. Sì, sul più del 30, sì. Addirittura. Va, pompando stai. Ciao Tino. Appena, dai. Giusto così. Sì, appena. No, gli assistenti che stai un po' tirata la radio, dai, già, che sai, che c'è qualcosina sotto. Io volevo provare con Claudio come va la lì. Aspetta che togliamo. Delle informazioni, ma non si fa sentire. Allora si sente che è un po' saturina, non è chiarissima, però molto comprensibile. Ancora satura? La batteria sì, sento anche l'alternata sotto, un po' di alternata. Vabbè, quelle sono le ventole. Aspetta. Eccola qua. Così va meglio? Così è naturale, però ti è crollato il segnale così. Vabbè, tutto non si può avere. Sì, beh, la radio è così normale, è liscia, tranquilla, cristallina. Però spinge bene, caspita, qui perlomeno su questo strumento da un segnale di 6-7 passi al più del 30. Guarda la radio ora, ci ha migliorato. No, va benissimo adesso. No, perché ho credo di aver abbassato un pochino. Ho alzato, non mi ricordo. Vabbè, ora se comincio così oppure in questa posizione. Per me è più, quando è abbassato ti ascolto meglio, rimbomba meno. Però noi siamo vicino, devi vedere per quelli più lontani. Quindi lasciamo così, dai. No, vabbè. Posso lo mettere adesso, avevo il mic della radio appena chiuso. No, va bene, caspita. Molti sono in, te lo puoi dire, dai, mi batte. Oh, 180. Giusto così a provare per vedere chi sta bombardando di messaggi. Oh, anche così c'è dei picchi positivi molto forti, di modulazione. Questi sono i watt della radio, liscia. Vediamo se riesco a... Allora, aspetta un attimino, così almeno vedo un pochino se... Quanto ne ha... non sono neanche tanti, sono... fa da 4 a 18 modulati, dai. Io per controllo, cambio. Ehi, pronti, avanti. Buonasera Marino, l'anno controllo di Cusano Valentino, io non ho quasi 40 anni, non so via per 50 per la fine. Il controllo di radio insegnare, grazie. Ciao Marino, io guarda, ti posso dare un segnale 8, ma prenderlo così, perché lo smitter di questa radio... Lo smitter di questa radio è molto raro, scusate che non passa. Grazie Tino, ciao. Dammi controllo. Buonasera Marino, qua sei 9.10, oscillante 9.20, la radio 4. Tino, ciao, grazie, grazie. Ciao Marino, mi senti a me? Io ti ascolto. Ciao, grazie Giulio, ci sentiamo dopo, ciao. Avanti Fra. Ma Giulio è entrato? Negativo, io non ho sentito niente, boh. E allora, o mi ha scambiato per Giulio, boh. Quanto arrivava da te, Marino? Un segnale di 2 qua, va, ripeto, questo smitter è un po' avaro, Qua 9.10, 9.10 abbondante. Vuol dire che c'è una bella zona lì, capito? Si è aperto. È abbastanza, da quel punto di vista lì, la parte bassa c'è. Dalla parte verso il mare chiaramente ho tutto libero. da viceversa praticamente vedo Sassari, buona parte di Sassari, quindi insomma, poi vabbè, riesco a vedere Osilo, intravederlo, dai, non è tutto, comunque Cappuccini, Lunesole, insomma, sono abbastanza visibile dalle parti di Sassari Alta, dai. No, no, capo, no, c'è una bella zona, si vede che, cioè, se tu a te arriva a 9.5 qua, stacco 2 o 3, vuol dire che sia, vabbè, lui è verso ottava, quindi se mi detto che vedi il mare, quindi vedi anche a lui, Sì, sì, sì, no, da quella parte è tutto libero, c'è proprio visuale al 100%. E capo, a tiro ci sei? Poca gente oggi? Infatti, insomma, ho provato a accendere poco fa, cioè prima, e, insomma, ho visto che forse per via del temporale, insomma, ho facendo commissioni, giustamente, che gli altri stanno, magari sono impegnati a fare altro, giustamente, quindi ho detto, boh, magari entriamo più tardi. Ma la paura dei lampi, dei fulmini. Probabile. No, comunque adesso il cielo si è aperto e sembra che, insomma, stia rimettendo bene. Poco fa è uscito anche un timido sole, non so se l'hai visto. Sì, qua già sta arrivando un timido sole. Si vede. Sì, si sta aprendo un po' il cielo, dai. Mi sa che è un periodo un po' così, altalenante. Però convinti che poi sia arrivata la primavera, invece, questi colpi di coda. Leggendo su internet addirittura parla male anche di mezzo al tempo, di Pasqua e Pasquetta, mi sembra un po' esagerata la previsione, però troppo presto, in quel senso lì dicevo. Ce ne sarebbe tanto da dire sulle questioni meteorologiche ultimamente, sono cambiate un po' di cose, insomma, diciamo che l'uomo ci sta mettendo parecchio lo zampino. Quindi insomma è tutto da prendere con le pinze, molte cose, molti eventi che spacciano per naturali non lo sono neanche, capito? Si riferisce a queste scie chimiche, così è? È da svariati decenni che stanno lavorando a certi livelli, poi chiaramente insomma già lo sai, si entra in ambiti insomma particolari, comunque poi che la gente ci creda o meno, determinate cose esistono, poi ti ripeto, se uno se ne vuole rendere conto va bene, se fa finta niente, poi ognuno fa i momenti di piatti, no, come si suol dire, comunque il fatto sta che scientificamente l'uomo sta intervenendo parecchio su questo, capito? Beh, i danni già si vedo. Ne stanno combinando, dai, ne stanno facendo di cose di crude. Ci sono documenti ufficiali, insomma, molto importanti che testimoniano tutte queste cose. E non documenti scritti da qualche frillo così che si mette a maneggiare, ci sono proprio documenti ufficiali con tanto di brevetti registrati, quindi non sono cartate, sono cose assolutamente serie, capito? Sono strane a volte queste scie, a volte vanno via subito, a volte rimangono ore e ore, a volte si allargano di brutto, non lo so, i dubbi ce li ho anch'io. Ce ne sono parecchi di dubbi, molto grandi, quindi non sono stupidaggini, perché poi chiaramente questa cosa qua è una cosa talmente grande, no? Che poi giustamente la gente dice, chiaramente è talmente una cosa grande che non la si riesce ad accettare, però esiste, cioè da svariati anni a questa parte, insomma, le cose non sono più come prima. E poi ti ripeto, ci sono documentazioni ufficiali, ci sono tanto di brevetti registrati, per cui non ho, stiamo parlando di cose che esistono realmente, cioè, insomma. E quindi ecco, sono un po', quando vedo certe certe cose, adesso anche in televisione quando parlano, sai, di violenze temporali le chiamano bombe d'acqua, capito? Quindi anche il gergo, le terminologie sono cambiate, insomma. Molti eventi climatici, diciamo che non sono completamente naturali, capito? Non lo dico io, e poi ognuno è libero di informarsi su internet, ma cioè, le cose già si trovano. Sì, se vai su internet ci sono le varie teorie, no? Quelle che ci credono e quelle che non ci credono. Però i danni si vedono, sicuramente, sia anche per l'inquinamento. Però il surriscaldamento globale esiste, il Niño, tutte queste cose, e i danni poi li becchiamo noi. Certo, ma guarda, a parte le, più o meno quello che la gente potrebbe credere, ti ripeto, ci sono dei dati ufficiali, quindi ci sono dei dati ufficiali, cioè brevetti, capito, registrati, tutta una serie di cose, quindi non sono teorie, è proprio nero su bianco, carta a carta, capito? Quindi su quelle cose non ci si può mettere, non ci si può dubitare, capito? Poi chiaramente non si parla mai dei danni che producono gli allevamenti intensivi a livello di inquinamento, di quello non ne parla nessuno. Poi giustamente ognuno è responsabile in propria misura, facendo le cose ogni giorno, però chiaramente cazzo dalle multinazionali che insomma ogni giorno fanno quello che fanno, insomma. Ce n'è di roba. Capo. Ormai tutto gira attorno a queste multinazionali, purtroppo comandano loro. Aspetta, nel frattempo, visto che ci sei tu, voglio provare a fare una modifica. Allora, sono riuscito a trovare lo schema elettrico del mio baracchino su internet. Allora, ho trovato praticamente il trimmer della regolazione dello smitter in ricezione. Adesso, controllandone, ho trovati altri due. Cioè, se ti trattieni un attimino in ascolto, prova a toccare il trimmer numero 2 per vedere se succede qualcosa quando lo regolo, ok? Ma sai a cosa serve il numero 2? Non ne ho idea, ti posso dire che il numero 2 è praticamente a livello fisico è posizionato vicino alla ricezione, al bocchettone dell'antenna. Ma sono di quelli piatti metallici, quelli col taglio in mezzo? Quelli praticamente, quelli vecchi, quelli in graffite, capito? Quelli marroncini e neri, con l'incasso per il cacciavite. Ma lì mi sa che ci vogliono i cacciaviti quelli non induttivi. Oh, aspetta che prendo gli occhiali. Perché mi sa che quelli ci vuole il cacciavite anti-induttivo. Sì, ne ho uno piccolo di quelli lì, infatti volevo provare a smanettare, quindi se sei d'accordo provo a muoverlo e mi dici eventualmente cosa succede. Guarda, io non l'avrei toccato perché sta facendo bene. Aspetta che mi si è incassata la portante. Allora, adesso provo praticamente a toccarlo. Tu sei pronto, mi dici quando sei pronto, faccio un passaggio lungo e mi dici quali cambiamenti avete, ok? Ok, intanto ti ho abbassato di segnale, ti ho portato a 7 per vedere se aumentano i watt, capito? Ok, guarda, adesso praticamente ho infilato il cacciavitino e sto provando a muoverlo in un senso, adesso sto aumentando ancora, sono arrivato a fine corsa da una parte, mi dice se è cambiato qualcosa? Sembrerebbe di no, però ricordati i cambiamenti che fai, cioè i giri che fai, poi li riporti alla posizione diciamo in origine. Sì, è segnato, gli ho fatto un'attacca di riferimento. Adesso praticamente lo riporto, faccio praticamente in senso inverso. Ok, adesso piano piano sto girando. adesso è a metà, continua la corsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dimmi com'è. Ma non so se è una sensazione, ma sembra che la radio forse stinga un po' meglio quando ruoti in questo senso, ma potrebbe essere anche il fatto che tu ti stai avvicinando o allontanando, bastano un centimetro dal microfono che cambia. Sembrerebbe comunque più forte. Guarda, il microfono più o meno è a questa distanza, adesso continuo, non sono arrivato alla fine corsa del trimmer. Continuo a ruotarlo, così sono arrivato a fine corsa del trimmer. No, non ha cambiato adesso. Ok, allora lo rimetto praticamente come era in origine, seguendo l'attacca, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vediamo un po', so come già lo bucio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, sì, più o meno l'attacca è qua. No, va bene, dai, no, non ci sono cambiamenti evidenti. Ok, questo è il VR2. Adesso, siccome di trimmer ce n'è un altro, volevo provare ad agire su quello. Vediamo un po' cosa succede. Dovevi avere un elenco, cosa muove il VR2. Ci sei, Fra? Sì, stavo cercando un pezzo di carta dove c'erano le regolazioni. Ok, quando vuoi io provo a muovere qualcosa, d'accordo? Questo che cos'è? VR che vuoi muovere? Vabbè, l'apparato non è né Midland né Lafayette, quindi è tutto suo, quindi non so a cosa ti riferisci tu col tuo VR2. Tu poc'anzi mi hai detto che era emosso il VR2, così hai detto? Eia. Penso che siano quasi uguali dappertutto quelle sigle, perlomeno. Così so poi. Adesso invece quello che vuoi muovere, che sigla c'ha? Aspetta che guardo. Allora, quella che ho mosso prima è il VR1, adesso voglio agire sul VR2. Certo, non trovo quel foglio dove c'è scritto tutto quanto. Io adesso provo a smanettare, mi dici se cambia qualcosa. Adesso sposto il trimmer in senso, vediamo un po' com'è, allora, in senso orario, adesso lo giro in senso orario e mi dici se cambia qualcosa, se sta cambiando qualcosa. Ok, dai. Ho già cambiato, c'è qualche novità? Il segnale è sempre uguale, sei sempre a 7. Adesso muovo il tutto in senso antiorario, vediamo un po' cosa succede. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Praticamente adesso tutto in antiorario. Sembra nulla. Ok, allora rimetto tutto come a prima. Adesso vedi, ragazzi, volubili picciti, che c'hai a garroni, ragazzi, cro. Vediamo un po'. Cazzo, mi sa che mi devo aiutare con la lucina del telefono, ok? Niente, Fra. Niente, è sempre uguale, sembra. Ok, no, vabbè, era giusto per levarmi questo dubbio. L'unica cosa che fa il VR1, quello precedente, è che mi varia praticamente in trasmissione. Durante il TX mi varia praticamente il segnale dello smitter. Ho visto che quando praticamente lo chiudo da una parte, praticamente il segnale dello smitter inizia ad avanzare 2, 4, 6, 8 fino ad arrivare a fondo scala. E quello regolato più o meno sui 9, 10 in genere, dai. Quando parli va verso fondo scala più o meno. E cappa, mentre girandolo in senso inverso praticamente l'ago riscende, capito? Quindi adesso ho visto che ci sono un paio di fili che adesso è motocchiometro, che praticamente ci sono un paio di fili che dal VR1 si spostano verso il VR3, che è quello che ho toccato per la regolazione in ricezione, capito? Quindi presumo che ci sia qualcosa in comune. Sì, capo, uno regola in ricezione e uno in trasmissione. Chi vuole entrare? Certo, non trovo quel foglio. Fra che sto rimettendo il trimmer com'era. Sì, K. Ok, l'ho rimesso come era in origine. Aspetta, provo su, su internet se c'è qualcosa. Scusate, ero al telefono, c'è nessuno? Ci siamo noi. Ah, ecco qua. Ora ogni tanto mi trattengono. Capi, no, stavo cercando, che non trovo quel foglietto dove c'erano scritte tutte le regolazioni da fare negli apparati, quei vari trimmer VR1, VR2, ma non trovo niente. Hai qualcosa per caso? Ah no, a me me le fanno, me ero proprio al telefono con chi me le fa. Beh, allora segnato, almeno i trimmer più importanti, no, non trovo più quello scritto. Guarda, non so, ho un Lincoln io da allineare, non so a chi darlo, perché effettivamente qui in Sassari, perlomeno, non so a chi rivolgermi. E non esce più bene? Guarda, lo faccio sentire, aspetta. Eccomi, sono qua, vai in saturazione, è vero? Prova a parlare, se sei fuori frequenza. Ma non lo so, non credo, fuori frequenza non credo, però la radio va in saturazione, hanno toccato il watt la LC da dentro, quindi non sapendo dove mettere le mani, lo sto lasciando così e poi non lo sarà. Ci arrangiamo. No, ma non è tantissimo, Solo col bip si sente un po', ma durante la modulazione non è malvagia. Ma perché ho il bip anche? Sì, c'è un bip. Ah, ecco, adesso lo togliamo, vediamo un pochino. Adesso non c'è. Vabbè, la radio però, voglio dire, è migliore l'altro, Comunque non è scarsa, Si sente che è forte, la radio spinge. Sì, però c'è chi mi dice che è troppo saturo, che poi, vabbè, qua sto dando neanche 5 watt. Diciamo che ho sentito di peggio, dai. Si capisce, cioè, è abbastanza comprensibile. Ma non mi dà cuore a usarla. Gianni, tu come lo senti? Il segnale è 9.10, la radio non è definita, non è limpida. Hai presente quando ci sporcano i potenziometri, no? Che non c'è, che il contatto non è buono, praticamente, che si sente la voce graffiare, più o meno un effetto è simile, capito? Ma lo capisci bene, sì, è comprensibile. Insomma, adesso l'ultimo passaggio che ha fatto era un po' confuso. No, io lo capivo abbastanza bene. Diciamo che è migliore questo. È che ho un po' di disturbi io oggi, effettivamente. A livello meteorologico, no? O elettrico? No, meteorologico, credo. Magari, come antenna cosa c'hai? Mantovan. La 1 o la turbo? No, Io dovrei avere una di quelle campagne da ripristinare, un 91, sì. Sai, è come che ascolto una sorta di alternata, capito? Mi ricordo che è molto sensibile, come te ne volevi, acchiappa tutto, Sì. Va bene. Comunque dai, ma con cosa mi stai ascoltando? Come apparato? Sì. È un veicolare, dai, un Galaxy, un Super Galaxy. Ah, vabbè, buono. Infatti, siccome poc'anzi ho detto, sì, a 9.20, ho detto, caspita, così tanto. Quando attacchi sale. Io liscio come ti arrivo? Allora, liscio sì, qualche cosina, però guarda, da premettere che questo è raro, Vedi un po' così, quanto salgo io? Adesso sei 9, però vai in negativo, quando è fischiato sei andato in negativo, prova. Appena è negativo, ma fai dello stesso da 6 a 9, non è che ultimo segnale. No, ti capisco bene, però si sente che si è attaccato. Gianni, come lo senti tu? Quando attacca quando mette a pulire la pentola, praticamente il segnale aumenta, però praticamente la radio perde di definizione, praticamente il suono diventa graffiante. Cioè, come ho detto poco fa, non riesco a trovare il termine in italiano per spiegare quello che voglio dirti. Avete presente quando state combattendo con un potenziometro che gracchia e che vi fa sentire l'audio sporco? Ecco, la definizione è questa, l'audio è sporco quando attacca, mette a pulire l'acqua. Ho capito. Adesso però lo voglio lasciare in lavorazione in maniera tale che magari cambia qualcosa, no? Il segnale come cambia da te, Gianni? No, già sale quando attacca. Molto? Adesso per il riferimento, tra una cosa e l'altra, mi sono distratto. E niente. Perché qua aumenta parecchio, cioè da Santiago 67 va al più del 20, al più del 30. Guarda già, aspetta un attimino, così è attaccato. Eccolo qua, è così attaccato. Attaccato. Qua mi arrivi a fondo scala, 9.30. Ma niente di strano che fare la saturazione perché sei troppo vicini magari. Cambio qualcosa per dire, lo metto in bassa potenza, abbasso un pochino diciamo, dai. Però almeno lavora lo stesso lui. Sì, adesso praticamente sei sceso quasi di 10, dai, 9.20, 9.30 oscillante, dai, mentre poco fa praticamente il fondo scala pieno. Ho capito, ma la radio è sempre sporca? Non è sporca come prima, Tino, scusa. Prova se riesco a migliorarla, appena, sto toccando il Michelin, così l'ho aumentato appena, vedi un po' se ha migliorato. No, si è sporcata di più così. Allora l'ho riportata così, guarda, l'abbasso un altro pochino se vuoi. Guarda un pochino se fa. Se riesci a trovare una via di mezzo sarebbe l'ideale per te. Cioè tra il minimo che hai toccato e il massimo di focante. Se riesci a trovare una via di mezzo, secondo me, sei sulla sei sulla posizione giusta. Allora, dovrei essere così, dovrebbe andare così, però posso anche vedere un pochino il microfono, vedi un po' se ha cambiato. Guarda, così è più o meno quella che hai di solito la radio, quindi insomma, è quella che usi, cioè, per cui insomma ti sento sempre più o meno con questa modulazione, quindi va bene così per me. Aspetta un altro pochino, guarda, probabilmente appena il foro, ma visto per vedere di cosa di migliorare, non so, vedi un po'. E così ha peggiorato appena. Ah, ecco, allora, eccolo qua, così dovrebbe andare bene allora. Sì, così sì, l'ultima regolazione che ha fatto l'ha peggiorata appena. Lascio così? Per mia opinione personale direi che si potrebbe lasciare così, non so cosa dice Franco. Franco? Ripeto, siamo troppo vicini, non possiamo dargli dei controlli buoni noi. Io l'avrei fatto passare ancora per me, però dobbiamo andare in lontananza. Vabbè, io devo abbassare il mic, lo posso anche abbassare. Un attimino. Invece la mia va in saturazione quando attacco già. Adesso non. Dando retattino mi sono dimenticato. Fai una prova. Vabbè, è freddo, prova un po', 1, 2, 3. Questo era con o senza? Questo è con, 1, 2, 3 prova, però ripeto è appena acceso. Guarda, più o meno è lo stesso sintomo che dà quando si dà gas, cioè praticamente il segnale aumenta e la radio perde di definizione. Vabbè, provo a guardare. Adesso è accordato. È molto satura? Risulta impattata fra. Invece così è liscia, dai, così è la migliore quella radio. Guarda, così è perfetta, cioè comprensibile, pulita, chiara e nitida. Mentre quando dai gas praticamente si impasta e risulta sporca. Beh, compressa, va in saturazione, siamo troppo vicini. Ehi capa, scusa un attimo, Voglia. Eccomi. Aspetta, ho leggendo un contratto che mi è arrivato. Mi sa che devo andare a stamparlo, Scusatemi, qua mi hanno richiamato. Va bene, fra, quindi, ti ripeto, lo posso abbassare di chi viene? Prova. Eccolo qua, l'ho abbassato. Vedi un pochino se è migliorato oppure no? Rimomba meno, quindi non è più comprensibile, anche se ripeto, si sente sempre che sta un po' strappando, però è comprensibile al 90%, al 99%. Ah, e allora diciamo che va bene. Ma se aumento il volume della radio o lo diminuisco? Non lo so, me lo devi dire tu perché se tu li metti ascoltando, guarda. L'ho abbassato appena, Vedi un po' se è migliorato o meno. Io da vicino ti ascolto meglio quando è bassa la radio, però in lontananza non lo so. Quando attacchi poi si sente che il silenzio è assoluto, cioè abbassa tutto il QRM e lo cancella. Ho capito, ma lo voglio far scaldare, però devo andarci sopra per vedere un po' se arriva, perché già sta lavorando, quindi è male. Vediamo un po' come va. No, sta lavorando bene, si vede che sta spingendo molto. Invece la potenza la puoi regolare o è fissa? No, la potenza magari, questa è una cosa che fa da mezzo watt, circa 1 a 18 modulati, quindi. No, intendevo dire la potenza del pentolino. Ah sì, così a metà, media potenza, ha solo due possibilità, o zero, o media, o massima. Ah, ho capito. Va bene, Gianni. Dimmi. E adesso come va? Adesso la tua solita, quella che sei da sempre. Chiara, comprensibile, va bene. Ah, ok, dai. Allora lasciamo così, poi vediamo, aumentando anche l'altra potenza, se migliora o peggiora, dai. Adesso ti faccio un passaggio, così ce l'ho già schiacciato ormai. Eccola qua. Così mi dici se ha peggiorato la radio oppure è rimasta così com'era? Guarda, più o meno è simile Tino, non ci sono grandissime differenze, si sente lo stacco, però grandissime differenze non ce ne sono, si è aumentato un po' il segnale qua, però non ci sono grandi differenze. Bene, anche per te così è fatto? Sì, non ha cambiato tantissimo, dai. La radio non ha peggiorato più di tanto. Va bene, deve provarlo in DX, a vedere come rende. Va bene, DX, diciamo che fa anche 350 SSB, quindi già pompa. Infatti guarda, ero mezzo demoralizzato perché era un amplificatore che utilizzavo con un'altra radio, no? Poi l'ho alta questa radio e è rimasto lui. L'ho provato con Lincoln, l'ho provato con l'Amato 48, l'ho provato con un Seat addirittura, l'ho provato con un variabile radio e tutti mi dicevano che è saturazione, quindi adesso l'ultima prova l'ho fatta ieri e l'ho provato con in questo, è una radiolina questa, è un 48, non ti credere che sia un HF, HF già ne ha bisogno di aiuto perlomeno per quanto riguarda la radio, è che sono stato un pochino, insomma, un po' più contento perché ho detto, almeno non lo faccio fuori, ce l'ho conservato, però ce lo sto utilizzando. In quel caso lì invece se non andava bene neanche questo, ero già disposto a portarlo dall'amico e metterlo in vetrina, ecco. Ma ho capito, c'hai anche l'FM quindi su questo apparato? No, perché hanno fatto la modifica, non ho sbagliato, però hanno fatto la modifica dei 120 canali, quindi l'FM va con i canali alti, capito? Ho capito. Purtroppo così, i tasti sono quelli da utilizzare, quindi è andato a discapito dell'FM, là. Vabbè, io avevo utilizzato quello del PA del CB per poterlo fare, però vabbè. Tanto il PA, vabbè, per la scorta, là. Sì, ogni tanto si usa, ma poco e niente. No, addirittura questo non è per l'ascolta, mentre invece un altro gemello ha sempre gli stessi canali, quasi sempre gli stessi watt, con la possibilità però di mettere la camera eco e niente, è per l'ascolto l'altro, invece questo no. Da camionista, va. Sì, da barbo proprio, è che quando ho fatto fare queste modifiche qua, uno ha fatto una cosa e un altro mi ha fatto l'altra modifica, quindi ho voluto fare due radio gemelle, però con cose differenti, ecco. E nell'altro lo stesso mi ha fatto il canale sempre con l'FM, vabbè. Pazienza, dai, avanti Gianni. Eia. Io momentaneamente questi problemi non li ho, la mia c'ha il volume on off, il commutatore dei canali e la monopola dello squelch, boh, finito. Ma che comunque esce bene quella radio, non è malvagia, non criticarla più di tanto. No, non la sto criticando, mi sto descrivendo cos'è la radio, cioè lo smitter, il on off, il volume, lo squelch e poi alla fine cosa diventa PA e poi il commutatore, finito. Il microfono è l'originale? Sì, è originale, era dentro un vecchio camper che è stato dismesso, questo baracchino. Invece tu Tino con il microfono cosa c'hai? Qualcosa di amplificato? Sì, questo è un più 5, prima serie però, ti parlo di quelli proprio primi che sono usciti, poi invece nel Lincoln è sempre il più 5, seconda serie, e poi ho un più 4 che adesso però gli sto facendo fare una modifica per via del... per attaccarlo sia a un apparato che all'altro, capite? Ci vuole un adattatore o che cosa? Mi sono fatto un cavetto, diciamo, che da 4 a 5 puli, oppure dall'MC60 che è 8 puli a 5 per Lincoln, oppure a 4 per la radio. Un adattatore universale, così? Per poter utilizzare il teleradio, Sì. Quindi c'è anche la regolazione dei toni su questo? Sì, questo sì. Ho capito. Come li tieni quelli? Alti o bassi? Non ho capito, scusate. Come li regoli i toni come alti o bassi? Come li usi? No, bassi. Un'ora e mezzo. Frequente basse, dai. Sì. E il volume invece a 6-7 massimo, anche addirittura questo è sì a 7. Anche io sto usando un amplificato, però non ha regolazione, c'è solo il potenziometro per l'amplificazione e basta, non ha suoni regolabili. Qui c'è anche lancetta e roba così che segna, se non sbaglio, se la segna, la modulazione, batterie, cosa si segna? qua la batteria, lo smith che c'è, il permesso della batteria, della modulazione del parlato, No, questo è solo un trimerino di regolazione e basta, dai, non c'è altro. No, vabbè, ma poi sono stati modificati, allora, non so, non mi chiedere cosa hanno fatto, perché è una modifica che mi fa un amico che ce l'ha questo microfono, è sua personale questa modifica qua, non credo che ne abbia qualche un altro di questa modifica qua. Quando ho visto un altro più 5 che mi ha detto dai dietro devo fare una cosa, tu la fa, ho capito, ma preso e anche questo è stato modificato. Però è sua personale perché era uno che lavorava in questo campo qua, quindi non è stato lì a dirmi, a spiegarmi cosa ha fatto. Ecco. Non vanno bene in tutti gli apparati, in certi apparati fanno questa voce sottile, escono queste frequenze medio-alte e poche frequenze basse, così mi ricordo. Ce l'aveva anche una mia amica e poi l'ha venduto e usava questo qua, questo che sto usando io adesso, e era più contenta, mi ci va veramente bene con questo. Capa, chi è che la utilizzava, se mi posso permettere? Ombra. Ah sì, conosciuto, a voglia. E poi gli ho dato questo c'era anche una camera eco prima, poi ha smesso di funzionare, deve essere buttata da qualche parte. Vediamo un attimino, scusate. Lo stesso, vabbè, sto facendo delle prove perché sto progettando sotto controllo. Ecco qua, no, è sempre così, sempre stabile. Hai fatto di nuovo media massima? Sì, ho controllato sia in uno che nell'altro. È che nel parlato mi dà appena dei negativi, mentre invece quando mi dà i positivi. Capisci? Fammi li dà negativi sul mio smitter. Negativi? Ma quando io sono in negativo ora? Positivo. Qua me li segna negativi, cioè quando parli scende. Ho capito. Vuol dire che ogni volta essere di luce. Ti ho attenuato, ti ho portato a 9 per essere più sensibile, no? Lo fa uguale. Certo, adesso mi ha dato un messaggio a Claudio, però lascio la risposta. Sta ancora festeggiando, dovevo andare a Cagliari, poi è andato, buh. No, ma adesso sta facendo una cosa, non può entrare al radio. Ok, no, stavo dicendo, dovevo andare a Cagliari, era la partita l'altro giorno. Ah, io? Va bene, sì, no, sono andato a Cagliari, prima a Cagliari, poi sono andato anche a Ubbia, scusa. Oh, Claudio doveva andare a Cagliari. Ah, non lo so, non l'ho sentito giusto con questo messaggino adesso e l'ho fatto dire ieri sera, quindi. Avanti Gianni. Eia, ascolta, brava, stai usando il microfono da tavolo? Sì, questo è di tavola, sì. Cos'è, multistrato o MDF? Medio densit. Mi sposto un attimino, mi allontano dalla radio un attimino. Capa, sì. È un vecchio Shure. Perché insomma ha un buon segnale, è definito come microfono, cioè abbastanza chiaro e insomma il parlato è molto chiaro, proprio bello forte e non va in distorsione. No, questo non spinge tantissimo, però come modulazione me l'hanno sempre data come buona, una buona radio. No, già si sente che spinge. Già si sente che spinge. Cioè, si vede che è un microfono, cioè, microfono buono, capito? Cioè, io la trovo definita e perfetta, cioè, proprio chiara. Diciamo che è senza frottole questo, come? Cioè, il minimo indispensabile. Una capsula, una regolazione e basta, è una batteria. Quando ci sono troppe regolazioni, poi, alla fine, non sempre si riesce a trovare l'equilibrio giusto, capito? Cioè, c'è già una buona presenza questo microfono, cioè bello chiaro e potente. Aspetta che però se trovo l'originale, provo il mic, quello da palmo. Mi sa che l'avevi già provato, no? No, l'altro giorno ho provato sul valvolare, su quello a valvole. Ah, quindi non stai uscendo con quella radio? No, questa è già transistor, questa è già più... quasi anni 80, l'altro è un po' più vecchio. Bene, bene. Aspetta che lo prendo, vai. Vai, vai. Ci aggiorniamo, ok? Buon proseguimento. Ciao Tino, questo è il mic originale, come mi hai ascoltato? Lascia perdere. Metti l'altro, ciao. Male sì, cambia molto? No, vabbè, a parte che fa tanto, se c'è qualche filo che fa soltanto. Sì, non è normale. Ma dico, è una buona radio sempre o è molto scarsa? No, è una buona radio, niente a che vedere con quello che avevi poc'anzi. Ok, tutto qua, dai, ti ringrazio, buona serata e alle prossime, dai, avanti Gianni. Beh, comunque c'è qualche contatto che va e viene, stava gracchiando, insomma, sicuramente ho qualche connessione che non è perfetta. Sarà il PTT che è fermo da molto, boh. Guarda un po' come si dice, pulire un po' i contatti. È probabile che sia quello, sì, magari si è depositato un po' di ossido e quindi gracchia per quello. Sì, se dici quello lo butto subito, eh. Sì, chiaramente non c'è paragone con il livello dell'altro, cioè proprio il livello di amplificazione dell'altro è chiaramente, visto che è amplificato, è superiore. Ecco, ritorniamo a Babbo, dai. Molto grande questo microfono. Di dimensioni? Insomma, compreso la base, quanto è alto? Penso che sia sui 25 cm di altezza. La base poi è rettangolare, sarà 15 per 10. Di spessore la base sarà 3 cm. Bene, bene. E la parte microfonica invece com'è? Molto grande o è piccola? Poi sale su con una specie di tronco di piramide, in pendenza verso l'operatore, e poi ha una capsula che è quadrata, sempre a forma di tronco di piramide. La capsula avrà un diametro di 3-4 cm, non è grandissima. Vabbè, però già si fa sentire, già è bella presente, cioè il segnale è buono. Qui la radio l'avevamo un po' aumentata, se non sbaglio, le regolazioni tipo quelle che hai fatto tu, le LC l'avevamo portata quasi al massimo, avevamo aumentato anche i watt, dai 6-7 mi sembra abbiamo portati ai 10 e 15 modulati. Ah, ecco, quindi non stai uscendo con il 4 watt classici. Eh no, questi, non, questi riescono con 7-8 watt, qualcosa in più di 5 watt. Però con le regolazioni riesci a portarlo ai 10-11, poi in base alla frequenza che tu parli, perché in certe frequenze ne ha di più, in certe frequenze un po' di meno, forse dipende anche dall'antenna. E modulati vedo dei picchi, o tipo il MIP, quando modulo il MIP arriva fino a 15. Ho capito. Beh dai, già, insomma, per una radio, per un baracchino così già non è niente male. Ma questo è bellino anche esteticamente, cioè c'è il frequenzimetro al centro, c'è i canali alti, i canali bassi, questo c'ha 6 bande da 40 canali. Dai, inizia a essere già una radio completa. Cosa c'è? AM, FM, USB, LSB. Sì, questo c'ha tutte le bande, c'è anche il CV doppio, si può collegare anche il CV doppio per fare telegrafia. Caspita, insomma dai, c'è tutto quello che serve. Sì. No, già, no, quando è uscito era un bel apparecchio, tutto cromato, c'è un sacco di pulsantini, tastini, accendi, spegni, frequentimetro, canali alti, canali bassi, si controlla, c'è anche il rosmetro incorporato, si controlla il watt, un po' tutto, dai, certo, non sono strumenti affidabilissimi, però hai un'indicazione, dai, generale. Forse ho capito che radio è, forse mi sembra di averla vista su internet. Sì, questo è, che sto usando adesso è il Samurai, e poi c'è anche il Super Galaxy che sono simili, però il Super Galaxy esce con qualche watt in più, infatti dietro c'è il dissipatore in alluminio che questo non ha. Kappa. Bene. Adesso vediamo cosa succederà, vediamo un po' come si muovono le cose. Certo è che il bambino qua attaccato è veramente piccolo, cioè, non tanto in termini di potenza, ma in termini proprio di canale, quindi appena mi sarà possibile voglio provare a metterci qualcos'altro. Lei mi ha avvisato, io gli altri canali poco li usiamo, a volte mi sul 12, diciamo, superiore, che sarebbe sul 52, da lì c'è un canale dove fai DX 27 5 5 5, la frequenza. Sì, me ne stava parlando Giulio l'altra sera, poi anche su internet ho visto gente che, insomma, su quel canale lì, quindi più o meno sto iniziando a conoscerlo. Ma quello che conta è l'antenna, quello che conta è l'antenna. Tu puoi uscire con pochissimi watt e se c'è un'antenna buona arrivi in capo al mondo qua. Poi noi che siamo vicino al mare siamo anche avvantaggiati, dai. Vabbè, come isola, siamo al centro del Mediterraneo, l'acqua già aiuta. Però non siamo sul mare, quindi utilizziamo un'altra propagazione, le onde rimbalzano verso l'alto e poi camminano, scendono verso il basso, una specie di ripetitore, diciamo, creato dall'atmosfera. Sì, più o meno mi ricordo, a scuola un sacco di anni fa certe cose le avevo studiate, ma non mi metto quasi più nulla, comunque un po' di cose mi sono rimaste e le altre le ho perse. Tu immagini che c'è un satellite sopra la tua testa e tu lanci un segnale, rimbalza sul satellite e ricade in terra da un'altra parte del mondo, capito? Poi in base all'altezza cambia, varia l'inclinazione, quindi poi variano i continenti che noi sentiamo. Vabbè, certo, sì, vabbè che poi adesso la M, la modulazione dell'ampiezza, sfruttava proprio il fenomeno praticamente delle radiazioni contro la ionosfera, e per questa praticamente faceva da ripetitore. Beh, se volete scaldare il tempo, vedrai, inizia a arrivare un sacco di bailame. Ieri eravamo qua in ruota, praticamente eravamo io, Claudio, Giulio, Massimiliano, insomma c'era un po' di gente, ed è entrato questo qua, questo tedesco credo, Tom, Thomas, insomma, 10 minuti di teatrino e poi si sono spostati, ce n'era anche un altro, credo, insomma, cartoffe, insomma, Claudio, mangia spaghetti, non so cosa, ah, un delirio, insomma, è stato divertente, là. E tu riuscivi a sentirlo? Sì, praticamente andava e veniva, però alcuni passaggi proprio sono riuscito a prenderli bene. Ma in AM era? Sì, credo fosse in AM. Che in genere lì, da quelle parti escono sempre in FM, preferiscono l'FM. Siamo qua in Italia che siamo fissati con la AM, eh? Poi credo, insomma, mi sembra che Claudio si è spostato, ha dato gas al booster, al turbo, e insomma, lui chiaramente riusciva a parlarci. Vabbè, ne hanno da spendere. Vabbè, poi alla fine questo qua, Tom e compare, ci sono spostati. A volte d'estate senti più forti questi che arrivano fuori che magari che noi che siamo a pochi chilometri, non riesci a sentirti. Sì, infatti mi hanno detto gli altri di attrezzarmi perché con la propagazione sono a rischio di estinzione. Da lontano non ci sentono più, anche io ho questa antenna in basso, non è molto indicata. Ma li sento meno di tutti, ma mi sentono meno anche gli altri. Ma hai problemi a tirarla su? Il tetto non è accessibile, allora dovrei smontare parte del tetto per uscire fuori, capito? Ma non abbiamo una botta, non abbiamo niente per salire sul tetto. Ok. Quindi neanche aggiungendo tubo riesci a risolvere il problema? No, anche perché non ho una staffa, adesso l'ho collegata alla staffa per stendere, ma l'altro giorno ho detto, quel vento che c'era, ho pensato, adesso me ne butta giù la staffa per stendere. Ok, ho capito. Vabbè, magari una soluzione già. Che riesci a trovarla prima o poi, dai. Adesso praticamente la punta arriva alla grondaia, la punta dell'antenna rimane a livello del cornicione, dai, nella parte bassa dove c'è la grondaia. Ho capito, dai, comunque non sfoga come deve sfogare, dai. No, proprio, sono in mezzo ai palazzi, perché i palazzi ce li ho a destra, a sinistra, davanti e l'antenna poi è parallela alla mia facciata, quindi è proprio morta lì l'antenna. Anzi, fa anche troppo, È proprio imbottigliata. Ascolta, a livello di TV hai, sei tranquillo? Ah, questa non avendo radiale, dicono che crea anche meno disturbi. Per adesso non si è mai lamentato nessuno, Eppure, diciamo, la mia antenna è posizionata proprio parallela a una TV che c'è a fianco a me, di una signora. La separa solo il muro praticamente. Ho capito. Quindi insomma, tutto sta filando tutto liscio, dai. Non ha molti disturbi questa antenna, questa Game Master, come si chiama, dai. Ho capito. Bene Meda. Dai. Io adesso chiudo, dai, ci sentiamo, sono di passaggio, ciao. Appena possibile cambio il cavo suo. Sono di passaggio, ciao. E ripristiniamo il segnale originale. K, salutoni. Eia, tutto bene comunque, dai. O poi dovevo avere anche la 91. Però è da pulire, da ripristinare. Vedere le connessioni delle linee radiali. Ma dove ce l'hai, campagna? Lì agli punti. Quella è molto ingombrante. Sì, la 91 è penso che sia sui 7 metri sempre, una buona antenna, una 5 ottavi. Cazzarola. Bene. penso sia tra i migliori, tra le migliori antenne che hanno fatto in, in circolazione. Anzi, qualcuno ancora la, la ricerca con la Mantova 1. Poi citava la Mantova 8, mi sembra, che c'è autoradiali, Mantova Turbo, hanno cambiato, però la Mantova 1 è rimasta sempre una buona antenna. Vabbè, per quello che ne so io, leggendo un po' su sui forum, ho visto che tutti ne parlano molto bene, quindi deve essere una buona antenna. Una volta quando ero in campagna una me l'avevano rubata, praticamente cosa hanno fatto? Perché era molto alta, hanno tagliato un paio di tiranti e poi con l'ultimo tirante hanno piegato l'antenna, quindi il tubo si è piegato verso il basso, l'hanno tagliato il cavo, mollata e tanto c'ha due dadi, mi sembra che sia da 17, boh. Mollata e portata via. Che allucinante. Proprio. Mamma mia, la gente non finisce di stupirci. Di notte era successo, quindi hanno avuto anche il tempo di farla in, almeno in due o tre pezzi, perché insomma è un'antenna lunga. E beh, vedi tu, non è un ombrello, no, che pigli lo chiudi. insomma, non è piccola, che è allora? Bobo, a questi livelli blu. E non è più, però conta che c'è anche i radiali, che sono, mi sembra, sono quasi 1,70 di radiali, ne ha 4, a croce, no? E poi, vabbè, le giunzioni erano con delle fascette, tipo quelle fascette per tubo, tutta roba originale, insomma, mi sa che le avessi anche un po' vulcanizzate per l'acqua. Sì, sì, ho capito, ho visto qualche foto. E conviene sempre tenere l'acqua lontano dalle connessioni, va sempre meglio. Claro che sì, io ho fatto, te l'ho detto, l'ho messa sul tubo dell'antenna della TV, poi ho preso il tubo e l'ho fatto, l'ho alzata finché le stanze me lo consentivano, quindi adesso è, diciamo che ha raggiunto una buona altezza, però chiaramente non la sto ascoltando al massimo perché ho fatto la giunzione a questo cavo, capito? Sì, ci vuole un buon cavo, Quanti metri è di cavo? Guarda, mi ho aggiunto, il cavo che ho aggiunto, siccome tra una cosa e l'altra, tra tirarla su, fissarla al faro e fargli fare tutti i giri che ha fatto, ho aggiunto circa 10 metri abbondanti di quell'altro cavo là, capito? E quindi questo si fa sentire. Ma in tutto quanti metri? 10 più? Adesso non me lo ricordo, avevo misurato, ho preso l'appunto su un fogliettino di carta. Avanno finalmente, sinceramente, la verità. Non mi ricordo, però c'è tutto con i due capi compresi quanto è. Oh, più o meno, cioè 5 metri, così, no? Boh, fai cosa saranno, boh, 20? C'è tutto, una ventina di metri, boh, penso di sì, dai. E quindi già è sempre meglio mettere un cavo buono, con poca dispersione. Se no tu dai un watt all'inizio, quando arriva l'antenna ne hai 0,6. Lo so, ti ripeto, mi sono trovato questo cavo qua a casa. Aspetta, ma facciamo un esperimento, ho controllato su una tabella su internet. Vabbè, tutti i valori, l'impedenza, coefficiente, resistenza, barabibarabà. Molto meglio rispetto al cavo d'antenna TV, quello è un'altra cosa. Questo a livello qualitativo chiaramente è superiore, viene usato per connessioni video, capito? Telecamere, viene usato per collegare le sorgenti video, quindi è come l'RG58, però è più grosso e il centrale è rigido rispetto cioè il centrale dell'RG59 è rigido rispetto al 58. Ma è multifilo o è un unico filo? No, praticamente c'è il centrale che è rigido e poi la calza e la copertura. Ma il centrale è un cavo unico o sono tanti cavi? No, è un cavo unico rigido. perché anche io sto usando le RG8 che è sempre un cavo rigido, però nel polo caldo ci sono 4 o 5 fili grossi, dai, che entrano giusti giusti dentro il PL, però è il doppio del, come spessore dell'altro, del 58, anche se ormai non lo fanno più, è un cavo vecchio, è già passato. Ho capito cosa stai dicendo, mi sembra che l'ho già visto. Sì, vabbè, te l'ho detto, questo è il 59, è un cavo video, e ho voluto provare, fatto questa prova e ciccia. Adesso appena possibile lo leviamo e mettiamo tutto come la prima. Non è strumento per guardare le stazionarie come si è messo, no? No, in questo momento no, però già riesco a buscarlo lo strumentino per fare quel controllo lì, già non dovrebbe essere un problema. Beh, almeno un rosmetro ci vuole sempre, dai, devi per la salute dell'apparato, dell'apparecchio. Certo, certo. Sì, ma non dovrebbe essere un problema quello, insomma, già riesco a trovarlo uno per fare un controllino così veloce. No, io quello non me lo ritrovo più, ne ero uno piccolino, addirittura leggevo anche dall'antenna, cioè, piazzavi un antennino, facevi la lettura dall'antenna, no? Schiacciavi la portante, facevi la lettura, ma non me lo ritrovo più quello, boh, chissà che fine ha fatto. Chissà se è deciso, no? Sposta, magari ha preso il volo. Lei da mia madre, a volte da casa di miei suoceri, non sai quante cose che ho perso, avevo anche delle direttive per la 27, col rotore, col motore proprio, la comandavi da casa, le antenne le ho trovate, ma il rotore no. Cazzarola. Magari le spostate se ne sei dimenticato. Aspetta che stacco un attimino così vado a farmi una sigaretta, ok? No, intanto io scappo a caricare un po' le batterie, dai. Ci aggiorniamo alle prossimine già. Stammi bene. E bocca al lupo per tutto, dai. Ok, grazie mille, grazie QSO. Dai, ci sentiamo prossimamente. Anche a te buon proseguimento e buona serata. Ok, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.